devo dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruci, una domanda indiscreta. Lei prima delle ferie diceva che non faceva più la trasmissione. No, ma perché non dice che le hanno cioè ha chiesto da 300.000 a 600.000 euro e mo le danno di più? Poi un'altra domanda, al maiale che c'ha a fianco, il super comunista puzzolente, quando le danno? Ma se lei si fa dare uguale al maiale, cioè diventa un cretino, cioè come me, diventa un cretino come me, no? Crucianino, super intelligentone. Ragazzi, io lo sapevo, lo sapevo che sotto c'era il trucco. Durante il weekend, caro Parenzo, ho appreso che i vegetariani in realtà un terzo dei vegetariani mangia la carne di nascosto. Ma quando mangia la carne di nascosto un terzo dei vegetariani? Uno su tre, secondo un sondaggio, che sia vero oppure verosimile, non importa, perché sicuramente è così. Tu sai, di notte, no? Di notte vai, uno va nel frigo, dice di essere vegetariano, poi va là e mangia tutto quello che è possibile mangiare a base di carne. Ma soprattutto lo fanno, secondo questo sondaggio, i vegetariani, i vegani, eccetera, eccetera, quando sono ubriachi. Ah, quando sono ubriachi. Non avevo visto questo sondaggio. Cioè, tu sei ubriaco, eccetera, eccetera. In qualche modo, no? C'hai una fame che ti divora, sì, che ti distrugge. Boom. Diciamo la verità, uno diventa vegetariano perché non ha un cazzo da fare. Cioè, la maggior parte delle persone che diventano vegetariani, vegani, sono probabilmente molto ricchi. Sono molto ricchi, sono benestanti, passano la giornata a pensare ad altre cose, cioè non si devono fare un mazzo così. Cioè, tu hai mai visto un operaio metalmeccanico che diventa vegetariano? È impossibile, ma non è impossibile. Ma è vero, ma stai scherzando? Sei. Ma no, ma ti assicuro, è impossibile. Io voglio trovare un operaio metalmeccanico anche della Fiat che ci deve chiamare e dire: sì, sono diventato vegetariano. È impossibile. Ma c'entra quello? Perché è così, costa, è una roba un po' da snob. Non hai tempo. Costa. Ma non hai tempo da pensare, capito? Tu pensi che sia una cosa in cui uno pensa, si mette lì, ragione, dice: aspetta, che sono di sinistra, quindi complesso. No, di sinistra, che c'entra di sinistra? No, perché tu dai tutta questa. No, non c'entra niente. Sto dicendo che secondo me un operaio. Cioè, uno di destra può essere vegetariano. Che ne so, uno che fa le. No, uno che fa uno le. Uno di destra è vegetariano? No, secondo me. Sì, è pieno di vegetariani di destra. Sì, più di destra o di sinistra? Non lo so, più di sinistra. Più di sinistra, però. Più di sinistra, però non c'entra. Questi buonisti, no? Che non mangiano la carne. Ma scusa, ma un operaio è uno di quelli che un operaio edile, no? Ma secondo che te, un operaio edile. Che lavoro non fa può uno? Essere vegetariano perché non ma ha perché? Tempo di pensare a queste minchiate. Ma perché gli cosa dai? Mi fa ma bene, cosa mi fa male? Non può essere vegetariano. Non può essere, non è veramente una follia. No, no, è così, è così. È così. I grandi sondaggi dell'Istituto di Urologia Europea. Senti questo sondaggio. Sì, questo senti, ho letto. È emerso che in condizioni di normalità la durata media di un rapporto sessuale. Sì, ne abbiamo parlato stamattina, ti ricordi? Te l'ho detto stamattina. È di 6,7 minuti. Sì, ragazzi, sì. 6,7 minuti. Sì. 6,7 minuti. Ma sono inclusi o esclusi i preliminari? Mi sembra un po'. Mi sembra esclusi. Al letto. Esclusi? Dice al netto. Al letto. Cioè, l'atto della penetrazione. Al netto. Di al netto. Non andiamo nei dettagli. Al ma netto. 18,39. Al netto. Al netto. Al netto. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Attenzione, c'è anche un'altra ragione, cosa. C'ha ragione anche Adinolfi, 7 minuti un po' pochino, no? C'ha ragione Adinolfi quando dice cercare di prolungare la durata normale del rapporto sessuale può mettere a rischio la salute maschile. Cioè, se tu cerchi di prolungare il più possibile, ma è il caso di entrare in questi dettagli o no a quest'ora? Non o andiamo lo so, più tardi. Vedi tu, sei tu che hai introdotto a ricorrere il tema della troppo spesso ad artifici per resistere. resistere può provocare un'iperdistensione della prostata e scatenare. Artifici, cosa vuol dire? Pensare alla suocera. Ragazzi, però io dico una cosa. Penso agli artifici. Però fate chiarezza su questo, perché da una parte c'è chi dice che più fai e la prostata non te prendi, non succede niente alla prostata. Adesso c'è questi altri tizi di non so quale rivista europea di urologia che dicono: attenzione, non bisogna prolungare il più possibile, perché si può provocare una, che cos'è questa cosa? Un'infiammazione della prostata. Fate chiarezza su questo, vi prego, chiarezza. Pippe. No, quello no, che c'è? Quello è sempre un rimedio. Caro Ferrara, quello è un altro discorso. Lui vuole essere morigerato, dice che i rapporti sessuali, però io non sono d'accordo con Ferrara, Vabbè ragazzi, Renzi nel weekend da Fazio, che noia, mamma mia, parlare di queste cose e poi andare a Renzi da Fazio, ti rendi conto? Renzi da Fazio dice che Marino si era messo contro la città, va. Non lo so se si è rotto qualcosa tra il PD e Marino, forse quello che si è rotto è tra l'amministrazione e la città, più che con il PD. E lei pensa a Sabella come commissario? Sabella è un ottimo nome, è un magistrato, è stato scelto da Marino e ha fatto un grosso lavoro sulla legalità. Chi sarà il commissario lo vedremo, anzi lo deciderà il prefetto di Roma. Allora, è chiaro che Marino è stato fatto fuori da un combinato disposto micidiale. Il Papa, la Zanzara, Renzi. Cioè queste tre entità, oltre che un po' di, come dire, di faciloneria sulla questione. E qualche cameriere di qualche ristorante. Sì, qualche ricevuta fatta male, hanno contribuito alla caduta di Marino. Lo sai che cos'è che mi sta sulle palle e che mi fa difendere in qualche modo Marino? Cioè, mi è diventato improvvisamente simpatico. Ma non c'è dubbio. Ma mi è diventato simpatico. Ma non c'è dubbio, bravo, meno male. Non c'è i preti, a me il Vaticano mi fa impazzire. Ma lascia stare i preti. Trattato peggio di Saddam Hussein. Quello è vero. Cioè, quelle manifestazioni che ci sono state, per carità, tutto legittimo, davanti al comune, questa cacciata all'uomo, neanche Tareq Aziz. Sì, però aspetta neanche un attimo. Saddam, aspetta un attimo, c'è un'altra. Vabbè, Roma liberata, ma liberata da che cosa? No, però c'è un'altra cosa. È la questione del Vaticano. Chiudiamo qui la trasmissione, perché no, non si può andare avanti. Leggo su Repubblica, quotidiano informatissimo. Ma che chi ha fatto... è questo che scrive la verità, vi prego, sulla prostata? 335 1, 2, ma chi è questo qua? Allora, aspetta un attimo, fammi questo dire una cosa. Questo è Bene in Casa, te lo dico io. Oddio. Questo è Bene in Casa. La verità, vi prego, sulla prostata. Certo, dice Bene in Casa. Certo. Fa male o fa bene scopare a lungo? Ragazzi, questo è fondamentale. Allora, una cosa sì. Però. Il Vaticano avverte via Ignazio, un articolo molto informato su Repubblica di oggi. Il Vaticano avverte via Ignazio e poi saremo neutrali sul sindaco. Io dico una cosa. Non ne può. Mi fanno difendere Marino, perché pare che sia diventato antipatico al Papa, al suo entourage, dopo aver promosso le coppie gay in Campidoglio. Che per carità era un po' una baracconata, perché non ci sono le nozze gay in Italia. Però viva Dio! Allora, pare che il Vaticano si sia turbato per questa cosa qui, e da quel momento in poi, anche per una certa invadenza dell'ex sindaco di Roma, abbia preso delle posizioni contro Marino. Allora, è mai possibile che la Chiesa debba decidere chi è il sindaco di Roma? Cioè, e che qualcuno dica: mandate via il sindaco e poi saremo neutrali nella prossima corsa al Campidoglio? No, è incredibile. Dai, su. È tornato barzellettiere Berlusconi, è un po' lunghetta, però sentirei questa barzelletta di Berlusconi sulle troie. Così dice barzelletta di Berlusconi sulle troie, ti giuro, ragazzi, però sì. Il linguaggio non è che ce lo inventiamo noi. Cioè, se Berlusconi in pubblico, davanti a un sacco di gente, racconta una barzelletta proprio così, credo sulle troie, se non sbaglio, che, in cui c'è questa parola, non lo inventiamo noi alle 18.44. Dai! C'è il commendator Bestetti che sta lavorando nel suo ufficio, come lavorano tutti i commendatori milanesi. Si apre la porta, entra la moglie come una furia e comincia a dargli delle borsettate sul coso. So tutto, vai al night tutte le sere. E lui dice: no, ma le minga vera, qualche volta c'ho un cliente che non sa cosa. Straniero porta al no, tutte le sere, ho capito, il conto in banca all'UBS che diminuisce, sei tu che spendi i soldi così, ma le minga vera. No, stasera vieni al night, ma ci vengo io, vieni con me. E il povero Bestetti alla sera deve andare al night con la moglie. Scende dalla macchina e subito li butta fuori del night e dice: buonasera, commendator Bestetti, te vedete, te cognusso in anche lì. Ma no, le minga vera questo qui. Entra e c'è la sigaraia, i suoi sigari preferiti, caro commendator Bestetti. Te vedete, c'è lo striptease di Prammatica. la signorina si toglie qualcosa, fa così e dice davanti a tutti: e questo reggiseno a chi lo do? E tutta la clientela in coro: al commendator Bestet. E a questo punto non ne può più, esce, si precipita, basta, vado all'UBS, ti denuncio la finanza, no, aspetta, senti, scusa, lei esce, prende un taxi, lui riesce a rincorrere, apre la portiera, si fica dentro, lei continua, cosa me fa, basta, adesso è finita, dico, ah. A un certo momento il tassista frena, si volta e fa: commendator Bestetti, noi di troie ne abbiamo caricate tante, ma una brutta, veggia e cattiva come questa qui, mai. Che Berlusconi immagina un mondo che ormai non esiste più, c'è il commendatore, la sigaraia, il night, certo. È roba di un altro mondo, però è fantastico. Anni 80, pure anni 80. Fermi tutti, che parliamo di una cosa seria adesso, quello che succede ad Ercolano, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, con il gioielliere che ha ucciso per difendersi due persone che lo stavano rapinando. Tra poco. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento La Zanzara. Sia lodato Gesù Cristo. Andiamo ad Ercolano, l'avvocato Maurizio Capozzo e l'avvocato di Giuseppe Castaldo, il gioielliere che pare sia rinchiuso dentro casa per paura della vendetta delle famiglie dei due signori che sono rimasti uccisi. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi. Allora, avvocato, innanzitutto dov'è il suo assistito? È veramente rinchiuso dentro casa perché c'è questo timore dopo le affermazioni fatte da quel signore? Le minacce esplicite. Non è rinchiuso dentro casa, peggio, si è dovuto allontanare qualche centinaio di chilometri dalla sua abitazione. Addirittura? Sì. Cioè non è più ad Ercolano? Assolutamente no. È in un posto segreto. Da tre giorni. Ma è protetto dalla, che ne so, la polizia, oppure semplicemente si è allontanato? No? È tutelato. Tecnicamente si dice che è tutelato. Tutelato dalle forze dell'ordine, allora? Ovviamente. Tutelato dalle forze. Ma dove si trova? In Italia o all'estero? No, in Italia, ovviamente. In Italia. Ma io dico una cosa, adesso poi, avvocato, andiamo più nel dettaglio su quello che è successo. Allora, si trova in Italia, e credo al nord? Immagino di sì, al nord, no? Si può dire, tanto il nord è esteso. Diciamo a qualche centinaio di chilometri da qui, al nord. Al nord. Cioè, è mai possibile che ci sia un paese come l'Italia, in cui una persona, semplicemente perché reagisce ad una rapina, poi adesso sarà la magistratura ad accertare tutto quello che è successo, se è stata legittima difesa, se è stato eccesso di legittima difesa, sia costretto a scappare dalla sua terra, dalla sua famiglia, eccetera, eccetera, semplicemente perché dei signori minacciano, eccetera. Ma come si sente lui, questo signore? Cioè, Castaldo? Ma io credo che tutto si possa riassumere in uno sfogo che lui ha avuto con me a freddo, diciamo, sì. Nel senso, un paio di giorni dopo, quando ha cominciato a realizzare il clamore che questa vicenda aveva destato, e soprattutto le conseguenze sui suoi figli, sulla sua famiglia, mi ha detto: avvocato, probabilmente, anzi, sicuramente era molto meglio se in quel momento ammazzavano me, perlomeno la mia famiglia avrebbe pianto fino al funerale, ma poi sarebbe finito tutto lì. Ah, lui dice: avrei preferito essere ucciso io che non magari vivere per i prossimi 30 anni sotto questa spada di Damocle. Ma sì, perché consideri che, per esempio, uno dei suoi figli, che ha un negozio, una... Lui quanti figli ha? Lui ha quattro figli. Quattro figli, ma lui ha precedenti, non lo sa, bisogna sempre informarsi su nella maniera più assoluta. No, ma la domanda è legittima. No, per carità, no, ma lui è uno a posto, lui, insomma, è uno. No, scusate, se non era a posto il porto d'armi non glielo davano. Sì, quello anche è vero, quello anche è vero, però, sì, potrebbe aver avuto la pistola anche per tanta gente. Però è tutto regolare, ecco, da quel punto di vista le chiedo, è tutto regolare, porto d'armi regolare. È la prima cosa che hanno accertato. Sì, porto d'armi in regola. Allora, I figli da quante persone le ha avute? Due mogli? Ha avuto una moglie? No. Quattro figli dalla stessa moglie. Ma una persona normalissima che aveva il porto d'armi dal 1975 e non aveva mai sparato un colpo, se non per andare al poligono a fare i tiri che prevede la norma che uno debba fare per essere in allenamento. Senta, avvocato, ma la moglie e i figli come sono? La moglie non ce l'ha, è vedovo. Sì, i figli sono protetti anche loro in queste ore o no? Assolutamente no, se non quello, diciamo, che viene vigilato quello che aveva la gioielleria a poca distanza da dove si è verificato il fatto, e che però dal giorno in cui si è verificato il fatto non ha più aperto il negozio. Cioè ha chiuso il negozio, dunque pure per questa paura. Roba qui, per paura evidentemente. Però c'è timore da parte dei figli che insomma qualcuno si possa svegliare la mattina e vendicarsi, perché insomma il clima è quello. Guarda, non è un problema di timore, è un problema che c'è qualcuno che questa cosa l'ha detta in televisione. No, ma questo siamo stati tra i primi a segnalarlo e tra i primi a dire che bisognava intervenire subito, no Parenzo? L'altra volta, l'altro ma giorno. Come no, ma scherziamo. Cioè di fronte a minacce esplicite di un signore che è il fratello credo di uno magari dei due uccisi. Ma sono già intervenuti e non lo sappiamo, l'avvocato Capozzo lo sa e noi non ne siamo informati. Cioè che hanno fatto con questo no, signore. Io purtroppo non posso saperlo, io mi sono soltanto limitato a chiedere naturalmente alla Procura della Repubblica che si prestasse la dovuta attenzione anche a questa cosa che devo dire francamente in tanti anni di professione non mi era mai capitata. Beh, perché magari non era mai capitata la dichiarazione esplicita, poi magari avveniva... Ma vede, vede non, anche quello secondo me è il segno dei tempi che cambiano e della percezione diversa che si ha di certi fenomeni, perché io a memoria non è che ricordo che si andava a casa dei familiari di un rapinatore ad intervistarli. No, ma in quel caso non era a casa, non mi ricordo dove, cioè in che vuole dire lei? Non ho capito, che è colpa pure dei giornalisti che vanno a intervistarli? No, non è questo, voglio dire, normalmente nel sentire... Ma magari potessi parlare io con un rapinatore, avvocato, glielo dico io, inviterei ogni giorno tutti i rapinatori italiani, glielo dico esplicitamente, se potessi intervistare uno dalla famiglia, non mi ricordo come si chiamano, li intervisterei subito, ma questo è normale, fa parte della, come dire, della, no, della discussione quotidiana, i protagonisti di una vicenda vanno sentiti, intervistati, anche se sono dei mostri, anche se sono degli assassini o pseudotali. Su questo... Naturalmente, però nel momento in cui lei converrà con me, che io... Per carità, insomma, per il mestiere che faccio sono il primo garantista del mondo, a me capita di prendere il rapinatore, che vuol dire? Però il discorso è che mi sarei aspettato nel momento in cui c'è stata una dichiarazione del genere fatta in una trasmissione televisiva sui canali nazionali che ci fosse stata una levata di scudo, che qualcuno avesse detto attenzione un attimo, che cosa sta succedendo, qui ci sono delle minacce. Vabbè, comunque mi sembra che alcune cose già la polizia le ha fatte. Senta, io però le voglio chiedere una cosa. È indagato il suo assistito, cioè Castaldo, che è in fuga, diciamo, da Ercolano? È indagato per... Sicuramente, sì. Quello è normale. Lui è stato, era un atto dovuto. Lui, nell'immediatezza dei fatti, ha dovuto rendere... Ma lui ha rincorso questi... Perché Parenzo, giustamente, è sempre interessato a no, vedere... No, alla dinamica, non io. Alla dinamica dei fatti. Alla dinamica dei in fatti, questo caso tu, perché sei qua tu. Ma anche tu credo dovresti essere interessato. Sì. Cioè, non è che uno spara... ad minchiam, così, se un conto è... Cioè siamo sicuri che siamo sicuri che siamo nel campo, chiederla a lei è anche banale, adesso dobbiamo chiudere, però chiederla a lei è anche banale, perché chiaramente lei è l'avvocato, però lui ha reagito in maniera... Come ha reagito? Avevano delle pistole giocattolo, mi sembra, no? No, allora, ci sono una serie di inesattezze, perdonatemi che credo sia il caso di chiarire. Sì. Sennò, però facciamo così, avvocato, siccome interessa a tutti questa cosa qui, perché interessa moltissima gente, io le do appuntamento tra un quarto d'ora dopo il giornale radio e chiariamo alcuni dettagli di questa vicenda, che è molto importante quello che è successo a Ercolano, ragazzi, perché cioè, su queste cose si gioca anche la credibilità di un paese. Cioè qui abbiamo un signore che è in fuga per centinaia di chilometri e che viene minacciato di morte dai familiari di quelli uccisi. Cruciani. Dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Brian Wilson, dai Beach Boys alle sue grandi opere passando attraverso la follia. Carlos Monzoni, il pugile bello e maledetto destinato a una fine terribile. Amelia Earhart, la donna che inseguì i suoi sogni fino all'ultimo volo. Jean-Claude Romain, l'uomo che per difendere le sue bugie sterminò la sua famiglia. E la meravigliosa storia di Peter Norman, l'atleta bianco che si schierò con i neri per cambiare la storia. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Ok Google, imposta sveglia, Il Falco e il Gabbiano, 15:30. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento La Zanzara. delinquente in Italia, andate a casa di Parenzo che sarà tutto possibile fare. Io invece ti amo, Parenzo, io lo dico chiaramente, ti amo Parenzo, perché grazie a te noi raccogliamo voti e raccogliamo ascoltatori. Io vi adoro, io vi adoro, ogni giorno vorrei fare la zanzara. Non è una delle sue imitazioni più riuscite, quella di Crozza, di Marino. Però vabbè, quella c'è e quella ci teniamo. Addirittura una canzone mi segnalano, una canzone su Marino, Marino, eccetera. Vi siete liberati di Marino, per quattro tagli a tette uno scontrino. Sono stato sfalculato in poche ore e adesso vi beccate le lezioni. Marino, Marino, Marino, la visa ora devo mollar. Le cene con moglie e cugino, adesso mi tocca pagar. Oh mia bella Roma, torno ad operare, neri alle mano e mafia capital. Solo mi dispiace per le rastrelliere, 6.000 per quartiere, ancora da montare. La cosa più divertente e anche più ridicola, diciamo la verità, che ho sentito durante il weekend, caro Parenzo, è stata l'intervista di Monsignor Aramsa, il teologo dalla D'Urso, il signor teologo dalla D'Urso, il quale, per carità, va benissimo, cioè a me va benissimo anche rivoltare come un calzino la Chiesa, non è una cosa che mi dispiace, cioè distruggere l'istituzione. Il punto è che uno non può dire di essere fedele al celibato. Lui sostiene, nonostante una relazione con un omosessuale, essendo lui omosessuale, nonostante la relazione con un uomo, di essere rimasto fedele al celibato. La cosa è o ironica oppure paracula. Adesso sarò un po' provocatorio. Io sono fedelissimo al celibato. Fedelissimo. Non ho toccato mai una donna. Chiaramente è una provocazione, a modo suo è vero che il celibato è previsto per i preti con sì, i rapporti però. Per le donne, però insomma non regge questa cosa. Devo dire la verità, da un punto di vista liberale, anche di laico, beh amico mio Aramsa, tu dovresti per primo dimetterti dalla Chiesa però, cioè va bene tutto, a me piace uno che rivoluziona dal basso, che fa l'inferno, sì, eccetera. No. Però se c'hai quella tonaca lì, se c'hai quell'abito, bisogna che. Poi hai una relazione con un uomo, ma anche con una donna, uguale. O cerchi di fare una battaglia per il matrimonio, eccetera, eccetera, oppure te ne devi andare. Te ne devi andare dalla Chiesa, amico mio, vattene. Bella battuta di Amicone, L'amico Amicone, scusate. Gigi Amicone, il direttore del settimanale cattolico Tempi. Sì. Non è che lo conosce la gente che sta in giro. Lo dicevo apposta per. Comunque, per il vescovo disse di essere contento. Se senti questa cosa, non è male. No, sai cos'è vero? Sai cos'è vero? Perché l'ho sentito da un ex seminarista. Dimmi. Che il vescovo gli diceva, era contento di aver fatto tanti preti omosessuali, perché così non lasciano in giro i figli. C'è anche uno shampoo, mi segnalano, vegan friendly. Ti giuro, esiste uno shampoo e balsamo, mi segnalano su Twitter, vegan friendly. Perché lo shampoo cosa ha? Prodotti animali di derivazione? È stupendo, tutto ciò è stupendo. Shampoo vegan friendly. È il marketing che produce tutto questo, capito? Perché ci sarà sicuramente qualche vegano che vede la cosa e si compra quello shampoo vegan friendly. È incredibile. Allora, però eravamo con l'avvocato di Giuseppe Castaldo, l'uomo di Ercolano che è fuggito centinaia e centinaia di chilometri distante al nord da Ercolano perché minacciato dai familiari di una delle persone che ha ucciso, Maurizio Capozzo. Mi sembra di aver capito che hanno sparato, quei due avevano delle pistole caricate a salve, però pistole vere, o sbaglio? Allora sì, si è fatta un po' di confusione tra il concetto di pistola giocattolo e pistola caricata a salve. Sì, la pistola giocattolo è quella che usavamo noi da bambini, sì. Insomma, per fare lo scoppio usava quei colpetti colorati che beh, tutti però ricordiamo. Se uno si presenta con la pistola a giocattolo non è che lo riconosce facilmente anche in quel caso che è pistola a giocattolo comunque. La pistola a giocattolo dovrebbe avere per legge il tappo rosso davanti alla canna. Sì, vabbè, comunque. E invece che cosa avevano? La pistola caricata a salve è una pistola esattamente identica a una pistola normale. All'interno ha una cartuccia che ha solo la carica esplodente e non ha l'ogiva, cioè il proiettile, quello che penetra. Tutto qui. Ma insomma, vuol dire, ha sparato questa pistola a salve o no? Si è inceppata? Che ha fatto? Questa pistola si è inceppata nel momento in cui veniva esploso il colpo, tant'è che credo che sia stato recuperato il colpo inesploso. Sì. Ma tutte e due avevano una pistola caricata a salve? Uno solo. Senti, io non ho capito una cosa, ma è un cecchino infallibile, adesso lo dico un po' ironicamente, no? Ma Castaldo è un cecchino pazzesco, perché hanno ammazzati due in un colpo, non è facile, cioè... No, guardate, da quella distanza è assolutamente semplice, considerata anche l'arma che lui aveva. Lui aveva un'arma automatica, una pistola automatica, quindi non a tamburo, sì. Che nel momento in cui inizia a sparare si ricarica da sola, sì. Sei colpi li spara in due secondi. Ah, proprio una specie di arma... Per intenderci, è più o meno simile a quella che è in uso alle forze di polizia. Tenete presente, perché prima poi ci siamo lasciati su questo e ritenevo che andasse chiarito, sia l'aspetto della pistola caricata a salve, che sfido chiunque che non sia un esperto balistico a riconoscerla, a riconoscere quando ce l'hai puntata a 20 centimetri dal naso. E poi c'era quest'altro aspetto che poi è stato chiarito, però continua ad aleggiare questo film, e cioè che lui li abbia sparati mentre stavano scappando. In realtà, ma non è che lo dice l'avvocato difensore, sì. Ovviamente sarebbe anche... Non stavano scappando. Ma lo dicono i testimoni, sì. E ce n'erano diversi, che hanno assistito alla scena, che Castaldo ha cominciato a sparare mentre c'aveva ancora la pistola puntata sul viso. Vabbè, quello lo accerteranno. Ma lui ha paura di essere incriminato, Castaldo, in questo momento ha più paura per i figli, per quello che per le minacce, eccetera, eccetera. Paura dello Stato, cioè di essere incriminato e di passare un calvario giudiziario, come è avvenuto per tante persone, per carità. Decisamente. Ha paura di questo. Lui ha paura di questo. Ha paura delle conseguenze per l'azienda di famiglia, ha paura per i suoi figli. Cioè, però ha paura anche dello Stato, cioè che lo Stato non ha paura della giustizia che non funziona, o no? Ma no, su questo devo dire che lui insomma ha manifestato abbastanza tranquillità, anche perché vi devo dire, insomma, anche per sfatare un luogo comune, abbiamo trovato straordinaria professionalità e nel magistrato che ha assunto la cura dell'indagine e nei carabinieri che devo dire. Ma lei sparerebbe, avvocato? Se fosse stato al posto avrebbe sparato, cioè nelle stesse condizioni, ha le armi lei? No, assolutamente no. Cioè per esempio avete ricevuto la solidarietà anche di Salvini, no? Sì. Cioè che dice di queste cose qua, della posizione dei politici che prendono posizione su queste cose? Ne fate volentieri a meno? Ma guardi, cioè, la politica fa il suo mestiere ovviamente, c'è un dibattito in atto da tempo che coinvolge... Vabbè sì, sulla legittima difesa, vabbè certo. Sia operatori della giustizia che politica, poi è ovvio che una parte politica la vede in un modo, una parte politica cioè, ma vi fa piacere che un personaggio come Salvini dica bisogna sostenere il gioielliere di Ercolano eccetera, oppure non ve ne fotte nulla? O vi danneggia. Ma diciamo non leva e non mette. Grazie, a presto, grazie. A lei. Ciao. Luigi da Pistoia, vai Luigi. Pronto? Dimmi Luigi. No, sei te che l'ha chiamato in maniera virtuale, nel senso ha chiesto che chiamasse l'operaio vegano. Ah, l'operaio vegano, eccolo qui, l'operaio vegano. Meno male, vedi che... Vai Luigi. L'operaio vegano. Sì, vabbè, operaio, bisogna vedere. Ma poi se sia operaio sul serio. Ma questa idea che l'operaio... Ma io non ho detto che non esistono, ho detto che sono rari, sono una rarità, lei è come i panda, cioè... Sono un operaio vegano, lavoro 9 ore al giorno... Ma dove lavori? Dove lavori? Lavoro in un magazzino edile. In un magazzino? Vabbè, ma non fai lavori di fatica. Ma non fai lavori di fatica. Ma dai. Il magazziniere fa. Ah, no! Non mi piace tutto il giorno ballini di cemento, cose, tagliatori, che ci vuole vedere. Vabbè, d'accordo, fai un lavoro di fatica e sei diventato anche vegano. Vabbè, d'accordo, ma quante ore? Io sono vegano da quando avevo 18 anni. Sei vegano da quando avevo 18 anni? Vabbè, sei uno dei pochi operai, gente di fatica, facchini, eccetera, che hanno avuto questa idea bizzarra di diventare vegano e vegetariano. Sei curioso, sai, anche camionisti vegani. No, i camionisti vegani non esistono. Non ho visto nessuno a seguire la mia strada. Però io vivo così e sto bene. Ma vabbè, d'accordo, ma quello là... mi alleno 3 volte alla settimana, faccio karate, sono un donatore di sangue. Cioè... Però io dico una cosa, Luigi, cioè, tu pensi che chi continua a mangiare carne come me e Parenzo, vuol dire, siamo tutti e due malati, assassini, gente che non capisce un cazzo del mondo, avvelenatori del pianeta o no? No, vedi, questo qua è uno che ragiona, Parenzo. I miei genitori sono onnivori, mangiano di tutto. Onnivori, questa la trovo stupenda, perché noi siamo onnivori, sì, carnivori. Scusa, come si chiama? Come vi chiamate? No, io sono normale. Normali? Io sono normale, sono una persona normale. Allora, che mangia un po' tutto. Voi siete normali e mangiate di tutto. Io sono vegano perché mangio strano. Mettiamola così che forse capisci. Luigi, aspetta, fermo. Io non ce l'ho con nessuno. Fermo lì. Brucida. La zanzara. Super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato con la trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo sempre. Allora, chi di scontrino ferisce, di scontrino potrebbe perire, caro Parenzo. È di pochi minuti fa la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta sulle spese di Renzi al Comune. Una vicenda molto molto complicata, molto complicata, con un'inchiesta del Fatto Quotidiano e con le risposte di Renzi con gli sms. Ma in cui scusami, Renzi... signor Cruciani, ma non è che il Fatto ce l'ha un tantinello col signor sì, Renzi? Un po' sì, non però dicchia. Fanno un mestiere loro, no, bisogna dire, fanno un mestiere loro, e chiunque fa un mestiere di rompere i coglioni al potere, ma non c'è dubbio, va sempre bene, perché i giornalisti di mestiere o comunque chi si occupa di queste cose, i radiofonici, la gente che fa lo, devono rompere il cazzo alle persone che stanno al potere, non solo i politici, chiunque. Questa dovrebbe essere la cosa. Poi uno si può divertire, eccetera, però deve avere un po' di schiena dritta, insomma, bisogna rompere i coglioni alla gente. Il Premier ha risposto all'inchiesta del Fatto, comunque a queste, no, al fatto che il Fatto dice, vedi, che mi ingarbuglio anch'io. Molto bene. Che bisogna tirare fuori gli scontrini. Io ho pagato sempre io al ristorante, tutto online. In realtà online c'è poco sulle spese del comune. E il signore del ristorante, là, Dalino, dice che lui addebitava tutto al comune di Firenze. E la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo. Vabbè. (800) 24 00 24. Siamo con Luigi da Pistoia, che è un operaio vegano. Perché ti stupisci uno dei così pochi tanto? Ma perché come stessi parlando con la perché donna perché vegetariani barbuta, ma... e vegani sono delle tipologie particolari di persone che hanno molto tempo per riflettere. È una follia proprio. E sono anche la maggior parte, siccome essere vegetariani e vegani costa anche un po', perché ma non è vero, non mi potrà negare Luigi anche mangiare le che essere costa. Vegani e vegetariani costa un po' di più che essere normali, cioè essere normali, essere carnivori o comunque mangiare la carne. O sbaglio, Luigi? No, sbaglio, perché no, io faccio tutto autoproduzione in casa. Vabbè, autoproduzione in casa costerà pure quello, autoprodursi in casa, perde tempo lei dunque. No, e perde tempo. Per esempio, io sono tornato alle 7 da lavorare e ora sto cucinando la cena. E tempo all'8:30 metto tutta la famiglia a tavola. Vabbè, siete tutti vegetariani vegani lì? No, io e mia moglie siamo vegani e vegetariani. La bimba no. La bimba no, perché non, non no, fate, la bimba. Perché la non bimba fate pure il lavoretto con la bimba? No, quando è con noi mangia come mangiamo noi. Quando è all'asilo con i nonni così mangia quello che c'è in tavola. Va bene. Questa è la nostra, Luigi, la nostra va scelta. Bene, l'operaio vegano l'abbiamo trovato. Salvatore da Brescia. Salvatore, vai. Pronto, buonasera. Dimmi, vai, veloce. Buonasera. Niente, io volevo tornare sul fatto del fratello della... di quello di Ercolano, no? Sì, sì, vai, vai. Ecco, io sono uno che ha protestato in piazza, sono sceso in piazza, ci ho messo la faccia e tutto quanto. Io per protestare pacificamente in questo paese di merda, perché è un paese di merda, sono stato tirato in tribunale e per me avevano chiesto la sorveglianza speciale. No, però come un terrorista. Parenzo, calma. Allora, di che stiamo parlando? Come un terrorista. Di che stiamo parlando? Noi non sappiamo niente, Salvatore, di quello. No, voi lo sapete. Voi ma lo che sapete? Sappiamo, io sono quello che ha mangiato la scheda elettorale nel 2014. Sono quello che minacciava di darsi fuoco in piazza San Pietro, sì. Richiedendo i miei diritti quali di padre, perché ho famiglia, non c'avevo lavoro, non c'avevo niente e nessuno mi ha dato un cazzo in questo paese di merda. Bravo. Invece vengono clandestini, sono terroristi. Terroristi, certo, li diamo i soldi, li facciamo stare nel nostro paese di merda, sì. Capito? Ecco. Gli diamo i soldi, li facciamo pernottare e poi dovremo aspettare che magari un giorno prendono l'accetta e ci taglieranno la testa. Però scusami Salvatore, tu sei passato, caro Salvatore, io ho il massimo rispetto per le persone che hanno esagitate, diciamo, le persone che hanno anche qualche problema. Io ho qualche problema. Beh, qualche problema sicuramente ce l'hai, anche solo finanziario ed economico, sto dicendo, finanziario ed economico. A livello economico, certo. Quello sto dicendo, per carità, non mi permetto di dire che sei malato in testa. Non mi permetto di... è vero, perché il problema che ho, mi sono rotto i coglioni in questo paese di merda. Però lei... e sono andato a Sulzano in un albergo dove ci sono alloggiati 20 clandestini e noi italiani. E che si è andato a fare? Andiamo da mangiare. Andiamo da mangiare con i nostri soldi. Che si è andato a fare in questo albergo dove ci sono i clandestini? Scusami. Dove ci sono i clandestini, mi sono insediato con loro, ho mangiato con loro, mi hanno dato da dormire. Cioè, sei praticamente mantenuto con i soldi dei clandestini? No, non mi sono mantenuto con i soldi dei clandestini. L'albergatore, se vuole prendere i soldi, andrà dal prefetto di Brescia, come paga i clandestini, pagherà. Allora, Salvatore, io non ho capito bene. Tu hai chiamato parlando di Ercolano. Poi sei andato a finire con la protesta, hai mangiato la scheda elettorale nel 2014. Io vengo trattato come un terrorista, come un ladro, come un maiale, facendomi i fogli di via di qua e di là, portandomi in questura, e questo qua che ha dichiarato che vuole tagliare la testa, che vuole ammazzare questo gioielliere, nessuno gli fa un cazzo. Non c'è dubbio che questo qua sia un potenziale. In questo paese di merda. Cioè, Però anche lei è un'orsolina. Hai ripetuto per la sesta volta paese di merda. Abbiamo capito. Secondo te l'Italia è un paese di merda. Abbiamo capito. È sette. Lo dico ancora per la quinta volta. È l'ottava volta, Salvatore. Va bene, tu protesti per che cosa? Fondamentalmente. Io non ho ancora capito. Protesti per che cosa? Perché sei in mezzo a una strada? Perché cosa? Perché questo sistema non sta bene. Quale sistema? Quale sistema? Questo sistema che purtroppo qua in Italia, il sistema dei politici, ma tu che mestiere fai? Io che mestiere faccio? Fortunatamente lo faccio da 2 settimane, perché qualcuno mi ha visto, si è passato la mano per la coscienza, fai? Faccio l'autotrasportatore. E quanti anni hai? Ho 47 anni. E che hai fatto prima di fare l'autotrasportatore? Ho fatto sempre questo mestiere, più o meno, prima ancora, anni indietro, ero un antiquario. E a un certo punto sei rimasto disoccupato, che è successo di grave? A un certo punto ho dovuto chiudere per crisi, perché Equitalia mi ha portato via anche le mutande. Ti sei magnato la scheda elettorale, che altri casini hai combinato? Mi sono magnato la scheda elettorale, ho denunciato questo Maroni sul taglio sulla tote scuola nella regione Lombardia, ho denunciato lo Stato italiano, ma non vanno avanti. Certo, denunciare lo Stato italiano è complicato, far andare avanti è un po' complesso. Ma io l'ho fatto. Se avremmo tutti il coraggio di farlo. A denunciare lo Stato italiano. Vabbè, Salvatore, auguri, tantissimi auguri. Riccardo dalla provincia di Alessandria, vai. Richard, vai. Buonasera, scusi il disturbo. Ma non c'è nessun disturbo, hai chiamato tu. Saluto l'amico Davide, sono Riccardo di Sale, si ricorderà. Sì, purtroppo. Io la chiamo per questo, il discorso dei preti. Sì. Io ho sentito venerdì sera la testimonianza della signora che ha avuto una relazione col prete. Sì. E io ho avuto testimonianza, sono stato amico personale stretto di uno dei più grossi preti di strada che è morto recentemente. Che ha fatto? E che anche lui mi ha detto, Riccardo, penserai mica che in tutti i miei anni di praticantato non mi sono fatto qualcuna? Più o meno, Cruciani, più o meno. Vabbè, dunque, che ci vuoi dire? Cioè, che è pieno di preti? Sì, il discorso è questo. Per i pedofili... Io sono molto beccalossiano, userei il chiodo che si usa per uccidere i maiali e lo sparerei in testa a un pedofilo in genere, prete o non prete che sia. Un chiodo per uccidere i maiali? Sì, ho presente, i maiali succedono per i pedofili farei lo stesso, è un po' cruento, me ne rendo conto. Un po', però. Sì, un po' forse. Invece, per quanto riguarda i preti... Sì. che io personalmente non amo perché sono, diciamo, laico. Se si fosse in America, sì, si sposano, sì, fanno la famiglia, sì, e possono professare il loro credo. Benissimo, non sono cristiani, sono altre religioni. Se lo si applicasse in Italia, sì, eviteremmo almeno di avere preti che sono esseri umani e hanno un sistema ormonale non lo so, però sì, certo, se potessero fare sesso, se fosse consentito sposarsi, eccetera, probabilmente non ci sarebbero relazioni clandestine. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. La Zanzara. Il castello non è serietà, e Pulcinella te lo ricordi, dice casteggiando. E Parenzo, tu lo sai che la Merkel oggi ha detto che non ospiterebbe un profugo a casa sua? Peggio, cioè, di Salvini? No, peggio. Sì, perché, scusami, perché Salvini aveva detto che le avrebbe ospitati, forse magari a servire a tavola, ma insomma le avrebbe ospitati. Matteo, pronto? Eccomi. Eccoci qui. Hai capito che ha detto la Merkel? È rimasta vita. È tornata tra le persone ragionevoli, dici? Sì, probabilmente la questione Volkswagen l'ha riportata coi piedi per terra, nel senso che siamo tutti buoni, ma la bontà bisogna mettere un limite e fissare delle regole, altrimenti c'è l'anarchia. Senti una cosa, ma partiamo da Roma, va. Perché, vabbè, Marino si è dimesso, ma voi che fate lì? Tu hai detto che vorresti la Meloni sindaco, o sbaglio? No, noi ci saremo come Lega a Roma. Ma in che modo? Con candidati, uomini e donne in carne e ossa, nei municipi, nelle periferie. Vabbè, d'accordo. Centro. Insieme a Casa Pound? Ma insieme a, non so, a chiunque abbia un'idea di una Roma diversa rispetto a quella lasciata da Marino prima e da... Vabbè, però Casa Pound è radicata a Roma, che ne so, magari fate una bella alleanza o no? Ragazzi, io sono aperto a chiunque sia democraticamente e pacificamente presente sul territorio. Dunque anche non a Casa Pound. Necessariamente dovremmo allearci con qualcuno. Potrebbe anche esserci la Lega da sola, evidentemente, visti i numeri, visto che si avvicina. Cioè, potete andare da soli a Roma, non credo, dai. Con Borghezio no? Sindaco. Perché no, con un romano sindaco, visto che dopo Marino, l'esperienza Marino ci dice che i sindaci di importazione lasciano il tempo che trovano. Non devo fare alleanze a tutti i costi con... Ma la Meloni la vuoi o no? La vorresti come sindaco o no? Se candidare sarebbe un buon candidato, però dovresti chiederla a lei più che a me. Molti parlano di un'ipotesi di Marchini. Ecco, ma tu all'ipotesi di un Marchini che mette insieme il centrodestro, i partiti di centrodestra, sei contrario oppure no? Non lo conosco, mi riprometto di conoscerlo per dare un giudizio. Sicuramente qualcuno che si ripromette di parlare alla destra, alla sinistra, sopra, sotto, all'universo mondo, o è un genio o non ha le idee particolarmente chiare. Cioè tu dici che si vende un po' a tutti? Se uno potrebbe fare il candidato sindaco sia da una parte che dall'altra, ripeto, io sono per le scelte precise. Dice potrei essere il candidato di tutti, tendenzialmente non è il mio candidato. Senti, invece, vabbè, adesso siamo invece sempre... domani sarà una giornata storica. Che succede, sai, domani? Che alla succede? Camera viene approvato lo Ius Soli, finalmente. Vabbè, chi nasce ma in Italia? Come una roba complessa, complicata. Complessa nulla, il migrante che nasce in Italia è italiano, fine. Ma non fine è così, tutto. Poi chiudi in realtà tu. Non è così. Beh, in parte. In realtà sì. È una porcheria assoluta che sta passando sotto il silenzio di tutti. Si regala la cittadinanza a 1 milione di persone, così come se l'Italia fosse il Luna Park. Arrivi, vinci il biglietto della giostra, perché la sinistra ovviamente pensa di avere 1 milione di voti in più. Cioè, che succederà? Ci sarà... Ma ti faccio un esempio molto concreto. Se questa legge folle contro cui l'Italia si batte e si batterà fosse approvata, se nasce un bimbo figlio di due clandestini, domani mattina vengono regolarizzati anche i due clandestini. Purtroppo non sarà così. Questo è purtroppo non sarà così, perché almeno uno dei due genitori deve avere il permesso di soggiorno. Non manderai via più nessuno da questo punto. Diventiamo un reparto partoriente di tutti i clandestini del mondo che vengono in Italia. Un grande reparto ostetricia. E lui ride. Ma io rido perché pure io sono contrario. Io perché, c'è un dramma, perché non si ha diritto a essere contro lo Ius Soli. O uno è a favore dello Ius Soli, come dici tu, oppure è un criminale. Questa è la teoria di Parenzo. È una bestia. Renzi preferisce la parola bestia. No, ma anche se in Italia, probabilmente vengono premiati i delinquenti, perché se fai il carabiniere che ti difendi, vieni indagato. Il gioielliere che ti difende viene condannato, io avrei premiato sia il carabiniere che il gioielliere. Ma a proposito dei gioiellieri, ma che bisognerebbe fare? Perché adesso c'è un nuovo caso, che in realtà è un caso vecchio, che è quello di Mattielli, c'è un caso addirittura ad Ercolano. Perché non diamo un po' di soldi, per esempio, a Mattielli, che mi sembra un disgraziato per strada, tipo Barbone, questo Mattielli? No, io ho chiesto al governatore della Lombardia Maroni, a Zaia, di creare un fondo per pagare legalmente la difesa dei cittadini per bene che si difendono e vengono indagati, alcuni casi addirittura condannati, che è una roba che non sta nemmeno. Beh, questo però pare che abbia esagerato nella reazione, questo Mattielli. C'è già lo stato per farlo, quello. Esagerato perché ha ferito due nomadi che sono entrati armati di spranga nel suo magazzino. Esiste già il gratuito patrocinio. Valido civile che è stato invaso e aggredito nel suo magazzino, ha esagerato. Beh, secondo alcuni magistrati ha esagerato nella legittima difesa, tant'è che lo hanno condannato per tesate. Alcuni di questi magistrati a trovarsi nella stessa occasione, aspettare di essere sprangati per difendersi e poi... No, ma non può passare questa cosa di Salvini, ma scusa, ma di cosa stiamo parlando? No, esiste già il gratuito patrocinio, esiste già... Pagheranno gli avvocati e le spese legali di cittadini per bene che, esercitando il sacro diritto alla legittima difesa, finiscono loro nei guai. Il caso di Vicenza ha avuto i due rapinatori, guarda caso, risarciti, una coincidenza, risarciti e condannati a 4 anni. Che senso, guarda caso? Che si è difeso, condannato a 5 anni, cioè una roba, no, guarda caso, nel senso che la popolazione rom residente in Italia non vedo quale grande contributo porti alla collettività, tanto che quando torneremo al governo, perché ci torneremo, ripeto l'obiettivo di fare dei bei campi sportivi al posto dei campi rom. Cioè, secondo te l'attività principale dei rom in Italia è quella del furto? Troppi rom rubano, troppi rom rubano e troppi pochi rom lavorano. Però la questione è molto semplice, alcuni giudici hanno deciso che questa roba qui è omicidio, tentato omicidio, una cosa di questo tipo. Buonanotte. Io trovo assurdo che uno che reagisce, ho sostenuto nei giorni scorsi, e Parenzo è andato su tutte le furie, che c'è il diritto alla difesa anche eccessiva, cioè uno non è che può misurare, ma perché, non ho capito, le leggi non si possono cambiare, se uno reagisce non è che dice aspetta un attimo, fermo, come devo reagire? Piano, livelli di colpi e poi una granata in faccia. Da 2 anni in Parlamento la proposta della Lega per cancellare il reato di eccesso di legittima difesa che si presta troppo. Cioè, secondo te uno si ammazza, può anche inseguire. Se uno c'ha il coltello lungo o corto, se uno ha la pistola che spara lontano o spara vicino. Cioè, se uno insegue una persona, la crivella di colpi va bene. Assolutamente sì. No, ma volevo sapere da Salvini invece, se a questo punto, perché non fate anche un bello sgravio fiscale per chi si compra le armi, ad esempio? Fatelo, a questo punto andate fino in fondo, in no? In Italia ci sono 1,5 milioni di persone che per sport, per caccia, per sparano, lavoro, certo, personali detengono delle armi. Aiutiamo chi vuole armarsi, cioè io sarei d'accordo. È un settore che per forza 100.000 lavoratori in Italia, io sono per la detassazione per tutti, compreso per chi vende e produce armi, assolutamente sì. La Beretta sarà contenta. Cioè detassiamo chi vuole, cioè chi acquista contento, un'arma per autodifesa. Citato, Cruciani, No, io ti sono senti, a me ti piace senti l'auto di, a me Mission Impossible. Sono d'accordo, anche perché l'Italia siete è uno pazzi, dei paesi più severi. Siete nel pazzi. Detassiamo chi vuole acquistare un'arma. Una granata anche, perché no? Detassiamo chi vuole, perché no? Chi vuole acquistare un'arma? Però, ma ci sono i due Ranger solitari. Ci sono i controlli. Ma ci sono i controlli. L'avete combattuto il cinturone? Ma che c'entra il cinturone? Non fare questa cosa folcloristica. Non solo pazzi, se hai siete una due condanna, pazzi. Ma in Italia se hai una denuncia, siete è uno dei paesi più restrittivi al mondo, non ti danno il porto. Cioè dovrebbe essere più facile, secondo te, più facile avere il porto d'armi? No, va bene così, ma bisogna tornare indietro, perché invece il governo Renzi vuole eliminare anche per le persone per bene che legittimamente ne fanno richiesta la possibilità di tenere un'arma. Milano, adesso ogni volta siamo qua sul nome qui, dai, ma dopo questa roba delle armi sul nome di, Milano, ma perché non te candidi tu direttamente? Basta con sta storia. Io so che da Forza Italia vengono pure degli appelli, candida è una fregatura, ogni volta vogliono fregare. Mi vedresti bene come sindaco di Milano? Io sì, abbastanza bene, sì, abbastanza bene. Ci trasferirei la residenza di settimana in settimana per riportare un po' di ordine, però non posso fare troppe cose contemporaneamente, quindi stiamo cercando qualcuno a cui io darò una mano. Sì, ma niente rettori, ma che rettori, professori, ma che professori, dai, persone normali. Hai detto che ti piace un rettore non so che università, della Cattomeccio, ci vogliono no, i rettori no, qua, i professori. È molto bravo il rettore della Statale, no. Ma perché sta preparando un dopo Expo con un campus universitario moderno. Vabbè, ma non può fare il sindaco. Non può fare il sindaco. No, ma chi ha mai detto che dovrebbe fare il sindaco? Per me il sindaco a Milano può fare tranquillamente anche un taxista. Vabbè, adesso non esageriamo, però ci vuole un... Cioè, ma chi lo può fare adesso? Feltri. Facciamo un appello per Feltri. Facciamo un appello per Feltri. Facciamo un appello. Feltri, ma è di Bergamo. Vabbè. Io lo stimo, l'ho candidato a presidente della Repubblica. Però è di Bergamo, dici. Però è di Bergamo. Comunque, non sono qua a farmi le pippe mentali come la sinistra sulle primarie o le controprimarie. Vabbè, ho saputo che Berlusconi, anzi no, l'ho confessato lui, che faceva il tifo per l'Inter quando era piccolo. Lui fa politicamente bene a dirlo. Io non sono altrettanto politicamente corretto, non sono mai riuscito a fare il tifo per l'Inter. Ma lui è un po' democristiano da questo punto di vista, eh? Inter, Milan, eccetera. Tu no, eh? Fa bene il suo mestiere. Io ho il difetto di essere più schietto e diretto. Va bene, ciao, presto. Ciao. Ha chiuso con Salvini, è chiusa la linea? Sì. Mirko Rimini, vai Mirko. Mirko, oh, finalmente Giuseppe, ciao. Dimmi, caro. Che fatica. Ciao, vorrei parlare di vegani. Dimmi. Io sono il proprietario di un sito internet che si chiama veganostammilontano.com. Sì. Che è successo? Dove spesso abbiamo parlato di te. Veganostammilontano, pensa che spettacolo. .com. Allora? .com. Ci hanno fatto chiudere in questi giorni la pagina Facebook perché... Come mai? Perché noi, diciamo, portiamo alla luce fatti che normalmente vengono invece riportati in maniera scorretta. Ma chi te l'ha fatta chiudere? Scusa, non ho capito. Diciamo un personaggio pubblico ha messo su un evento di segnalazione di massa, non posso fare il nome, però lo puoi cercare da te su internet se vuoi. Sì. Vi hanno fatto chiudere questa pagina, voi che fate? Segnalate tutte le follie dei vegani, tutte le notizie? Segnaliamo, abbiamo scritto anche un articolo su di te perché tu sei una delle poche voci controcorrente. Ragazzi, ma qui chi si mette contro i vegani e i vegetariani spesso viene massacrato, viene perseguitato, adesso non esageriamo, perseguitato no, fermi. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. La Zanzara. E intanto, caro David, cominciano a fioccare i candidati al Campidoglio, Nell'ordine... Una pornostar, forse insieme a un noto disturbatore televisivo, forse. L'avvocato professore altissimo Carlo Taormina. Non è vero? Sì, sta per annunciare la sua candidatura tra pochi giorni. È tutta la zozzeria. Dalle denunce contro Renzi. Certo. Alla corsa al Campidoglio. Ma ci va che. Allora, ripetiamo, una pornostar insieme forse a un noto disturbatore televisivo. Due, l'avvocato professore Carlo Taormina. E Pino Insegno. Mi dicono Pino Insegno, c'è pure un audio, l'ottimo Pino Insegno che ha detto sono tentato, ottimo. Forse, eccetera. Pino anche Insegno. Tu che sei romano potresti candidare. Ma io non ci penso nemmeno lontanamente. Ma me la vedi, a parte che sono residente a Milano e non mi candiderei mai. Tu sei romano sicuramente, quindi potresti, no? Assolutamente no, Insegno. Pensa che rapporti buoni con il sindacato del comune. No, ma soprattutto con il Vaticano, che... con le autorità vaticane. Ma con il Vaticano anche, certo. Ma pensa anche solo i rapporti con i sindacati interni. Pensa a quello che può accadere, guarda. Io sinceramente ho pensato al volo di candidarmi, non c'ho una lista, però mi piacerebbe moltissimo prendere questa città per mano. Comunque sarò uno pronto per non solo pulire questa città e farmi bello, ma fare bella questa città. Forse ce ne sono altri, però ditemeli voi perché me li sono scordati. Per adesso io ho annotato queste persone. La Meloni. Ma no, non si è mica autocandidata. Che dici? Ma ha detto sono molto disponibile, lo farei volentieri. Ma che vuol dire autocandidata? Flavia Vento si è candidata addirittura per un programma. La signora Flavia Vento. Questo è giusto. Una pornostar, forse con un noto disturbatore televisivo. Amico Pino Insegno. Chi c'è poi che abbiamo detto? Tu Flavia Vento. Anche Cruciani, mi candido a sindaco di Milano. No, io no, di Roma. Di Roma, scusa. No, assolutamente. Falla. Eravamo con il fondatore di veganostammilontano.com, sì. Mirko da Rimini. Sito il cui profilo Facebook è stato chiuso per motivi oscuri, adesso non pensiamo a un complotto, Mirko. Però ecco, dacci due cosine sui vegani, sulle manie vegane che ti stanno profondamente sul cazzo. Mirko, dimmela, quali sono le cose su cui intanto... vi ha... Intanto mi scuso perché non ho salutato David, che ci siamo conosciuti a Perugia al Festival del Giornalismo. Sì. Abbiamo conosciuto tanta gente, non è che si può ricordare di nessuno. Non lo ricordo, che era circondato da figa. Infatti mi ha spiazzato sta cosa. Questo mi sembra un po' difficile. Mi è sembrato strano. Il problema del vegano, quanti anni fa? Simpatico questo Mirko, a maggio. Ah, adesso dici, nonostante il fatto che no, impegnato, intanto abbiamo detto, poi è sparito. Va bene, a parte questo, il vegano fondamentalmente è una persona che ha dei grossi problemi interiori e li esternalizza verso l'empatia nel riguardo degli animali. Quindi tutte cioè ha problemi, è una persona che ha problemi, dici te alla fine. Ha problemi mentali e soprattutto si arrampica sugli specchi per dare spiegazioni etiche, morali. Ma che te ne frega a te? Cioè, ma tu continua a essere carnivoro come vuoi, come lo sono io, ma che ti frega? David, scusa, fammi parlare. Ma per carità, ma che ti disturbi? Mica mi disturba me uno se è vegano. Per me uno può essere anche bubù, basta che non mi rompa le balle a me. Scusa. Ma dimmi due cose, dai. Quello invece è il problema. E rompono le balle a tutti. A tutti i livelli. Voi avete, Beppe ha parlato adesso dei candidati a Roma. C'è una persona che ha detto, mi candido forse, la prima cosa che faccio, tolgo le botticelle. Questi rompono i coglioni a tutti i livelli. A tutti i livelli rompono i coglioni alla Simmental perché fanno le scatolette, rompono i coglioni a qualsiasi cosa che riguarda il mondo animale, anche le più banali. Voi non vi rendete conto? No, mi rendo conto io di questa cosa qua, però ognuno può rompere i coglioni a chi vuole, l'importante è non mi rompere i coglioni a me. Hai ragione. Noi quando mi dicono sei un assassino, uno capito che mangia carne. Giuseppe, io ti dico che sono partito dal vegano, che il vegano tra tutti questi qui è la persona più tranquilla. Ci sono dei livelli di persone che sono fuori di testa completamente. Il problema è che dietro ci sono che ci speculano su questo. I crudariani, com'è che si chiamano questi qua? Ci sono i fruttariani. I fruttariani, beh, stupendo. I fruttariani. Va bene, ciao Mirko, ciao. Giulio da Roma, vai Giulio. Eccoci. Vai, dimmi. Ciao ragazzacci, allora buonasera. Io volevo intervenire sul discorso del vescovo. Era un vescovo. Ma che hai, di viva voce hai? Quello là. Amico mio, togli viva voce però, sennò come facciamo? Viva voce, per carità, era stavo in una stanza dove rimbalzava. Allora? Spero che adesso vada bene. Allora, io ho fatto il pilota militare. Sì. E naturalmente, come dire, ero pronto a fare la guerra. Ci siamo. Ora, se da prima o durante io mi fossi scoperto pacifista gambiano, quelli proprio che se ogni tanto si purificano perché accidentalmente magari continuavi lo stesso, a fare continuavo lo stesso con quale aspetta che io continuavo lo stesso, ci poteva sta, però che io andavo a rompere le scatole al ministro della difesa dicendogli ma forse siamo un po' troppo cattivi. Vogliamo darci una bella svolta. Cioè, tu dici il prete, il prete che ha fatto il coming out sull'essere omosessuale, della la storia con un compagno, non può restare nella chiesa. Non può restare nella chiesa se fosse veramente una persona onesta, al di là del prete. Cioè, tu dici un paraculo che vuole farsi pubblicità. Paraculissimo, certo. Te lo dico, guarda, da non cristiano e non cattolico. Ma ho capito quello che dici. Però cioè, tu dici io pilota, se fossi stato pacifista, eccetera, non venivo a fare le prediche. Arrivano i nemici, gli dico, prego, accomodatevi, perché tanto io non vi posso mica sparare, io porgo l'altra guancia, no? Mi metto e mi faccio abbattere. Ho capito, Giulio, chiarissimo. Pietro, Verona, Pietro, vai. Pronto, buonasera dottor, dimmi. Crociani, un saluto anche al suo amicone lì, siete il diavolo e l'acqua santa. Si chiama Pietro si chiama. Volevo intervenire sul discorso della legittima difesa. Purtroppo e ahimè succede tutto questo perché in Italia non ci sono le leggi che funzionano, non ci sono leggi sotto nessun profilo. C'è una confusione totale. Dunque, allora? chi si difende ha il diritto di farlo e lo deve fare. perché non ha modo di essere. Ma io non lo so se non ha modo, ci sono dei casi molto diversi, naturalmente, non è che sono tutti uguali i casi. Il problema fondamentale è questo: se uno spara, secondo me, quando tu reagisci, io non sparerei mai perché non avrei il coraggio. Se tu vieni rapinato, c'è qualcuno che entra dentro casa tua e spari. Poi però se spari con 5 colpi, se ne spari 20, se ne spari 30, se continui a sparare, perché magari non sei sicuro che quello è morto, che quello è crepato, cioè non puoi essere accusato di eccesso, perché è normale che uno difendendosi abbia degli eccessi per essere sicuro di non essere colpito. Mi pare assolutamente normale. Invece poi, giustamente o ingiustamente, secondo me ingiustamente, Parenzo dice giustamente, vanno a fare... No, hai sparato 20 colpi, hai preso quello... Ma guarda che siete un mondo strano voi che sparate. Voglio dire, Io non sparo. Ma sì, ma che inciti a mettersi il cappello da cowboy io a non sto sparare, incitando. Ho detto semplicemente a sparare in giro. Che le inchieste su chi reagisce sono eccessive, perché anche se uno spara 30 colpi e insegue uno perché vuole essere sicuro che quello crepa, fa benissimo. Un grande amico della Zanzara, non so se sia contento della caduta di Marino, delle dimissioni oggi formali di Marino, anche se ci sono questi 20 giorni. Direttamente da casa sua, credo, a Roma, Enrico Montesano. Come andiamo? Guarda come ti presento, guarda se ti ricordi sto film che hai fatto. Ah, sicuramente, se non sei completamente andato, non credo. Guarda se ti ricordi questo, Enrico, senti. Vedete, santità, in romanesco l'aereo va sempre simbola, no? Non so, noi non dimo carrozza, noi dimo carrozza, noi non dimo, come in italiano, la chitarra, noi dimo la chitarra, con aereo sola. Carrozza, chitarra. Ci sei andato vicino, vero? Ma chitarra pure in italiano si scrive con una T sola, quindi si dice chitarra. Giusto, chitarra. Ma chi era questo, Enrico, che voleva insegnare il romanesco al Papa? Era il Vetturino del Papa, no? Ah, il Vetturino, che era il film, qual era? Era un episodio bellissimo di Qua la mano. Un episodio di Qua la mano. Esatto. Senti una cosa. Sacrificato per fare il cosiddetto, come dicevano allora i produttori, movie, due film in uno. Ah, c'era Celentano nell'altro, sì. E nell'altro c'era Celentano, sì. E vabbè, che vuoi fare? Ma fu un grande successo con Adriano, insomma. Poi... Senti Enrico, ma ti chiamiamo sindaco, Hai suonato le campane? Che mi hai chiamato sindaco. Sindaco Montesano. È bello, te l'ho detto l'altra volta, dico, ma che me volete mandare in giro con il giubbotto antiproiettile? Vabbè, adesso non esageriamo, adesso non è che fa il sindaco per forza il giubbotto antiproiettile, su. Ma sai, no, è vero, perché il Marino non ce l'aveva, però... Ma lo faresti o no? No, cosa? Lo faresti o no il sindaco? Ma guarda, sì, guarda, ormai tu l'hai detto, non so se ci stai con la testa, io ormai con la testa non ci sto tanto, potrei pure dire di sì, ma mi divertirebbe come un pazzo, come un pazzo, ma non è il mestiere mio. Non dai. È il mestiere tuo, però siccome l'ha fatto Marino il sindaco, io credo... Lo possono fare tutti, dici tu. Beh, insomma, voglio dire, al di là di quello che è successo, non mi pare che la performance, proprio come amministratore della città... Ma infatti adesso io tutto sto piagnisteo, sì. Oddio se n'è andato, oddio che è successo, oddio... Capisco, ha preso i faldoni e l'ha portato alla magistratura, cosa che bisognava fare già da 30-40 anni fa. Ma dico, se siamo legati solo a Marino, siamo messi proprio male. Ma tu pari dei sostenitori di Marino, effettivamente anche tra gli uomini di spettacolo, tra i tuoi, tra virgolette, colleghi, ho letto. Che c'è una sorta di solidarietà che non manifestavano prima, ma devo prima dire. Ma nessuno, nessuno ha detto, no, perché ce la prendete con lui? Anzi, io... Che tu lo sai, l'ho sempre pure attaccato un po', no? Sì, perché sì. Lui non ha amministrato sta città, no, l'ha abbandonata. Sì. Ecco. Sarà mica allora... solo colpa sua, però adesso dai Enrico. È vero, io dissi: guardate, che non è però tutta colpa sua. Per esempio, adesso, visto che è andato via lui, sì. Perché non mandiamo via pure gli inamovibili? Cioè i dirigenti, dici. Quelli non li caccia via nessuno, quelli stanno lì da 30 anni. Ma quelli rimane nessuno. Scusa. No, i dirigenti, quelli che non lavorano, quelli sotto bosco, gli amministrativi, quelli che dicono non c'è sta nessuno. quanti siete oggi? 35, 14 ammalati. Hai capito? Senti, ma è vero però che alcuni tuoi colleghi, la Ferilli per esempio, altri dicono, beh, il Papa Gassman anche, Gassman, il Papa non doveva intervenire in quel modo. Ma cioè, il Papa gli ha dato una botta. Mamma mia, pure noi gli abbiamo dato la botta. Io non l'ho evitato, chiaro? Ha detto, hai visto, Papa sì. Gagliardo. Gli ha dato l'estrema unzione, gli ha dato per corpo di grazia. Mi pare di capire che non sei particolarmente scontento di questa caduta, no, di Maria. No, perché io dico, ci sarà qualcun altro che vuole combattere la mafia, i poteri costituiti, le Carellari, i gallarostari, tutti questi, i centurioni, tutta sta roba qua, bancarelle dappertutto, ci siamo capiti, insomma, chi c'è 300 licenze di venditori ambulanti, 400, quante ce n'hanno, però non se la devono prendere pure con gli storici che vendono i ricordini, i ricordari, quelli ci stanno da una vita, però voglio dire... Allora prendiamo la palla al balzo e rinnoviamo tutto. Cioè, no? Tu dici, lui si propone e si presenta come l'unico in grado di contrastare la mafia, non ci sarà solo lui, no? No, io sono preoccupato se la gente pensa questo. Ci sarà pure qualcuno insomma in grado di contrastarla, no? Ma tu sti centurioni davanti al Colosseo li toglieresti? Io sì. A me pare una carnevalata o scena. Io toglierei tutto. Il problema di Roma sarà mica i centurioni. No, però è un esempio del fatto che lì c'è una specie di mafia. Sì, dai, ma quello specie... sì. Cioè, no, è bravo, è quello che c'è sotto, capito? È che non si può fare niente perché se no questi vengono armati. Dai, su, abbiamo visto. No, è vero che se tu vai davanti alla Torre Eiffel, ad esempio, non è che trovi quello vestito da Napoleone. Da Napoleone, certo. Se tu vai alle Invalide, non è che a Londra, non è che ci stanno quelli con i cornamuso vestiti come i guerrieri. Sì, perché dobbiamo avere quelli che fanno fare foto davanti là, che sono pure dei piccoli gruppi, insomma, no? Vero. Togliamoli, dai, su, togliamoli. Dai, come bisogna togliere? Perché io facciamo un programma da sindaco, fermo, adesso c'è la pubblicità, poi mettiti in testa di fare un programma da sindaco di Roma, da sindaco Enrico Montesano, sindaco di Roma. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. La Zanzara. La trasmissione è sempre la migliore. Qui la Zanzara 800 24 00 24. Fra poco torniamo con gli ascoltatori. Intanto un grande amico della nostra trasmissione, Enrico Montesano, hai stappato champagne, che hai fatto? Hai suonato le tue campane personali? Ho suonato la campana a casa, siamo stati contenti. Ti ho detto, ripeto, riconosciamo che abbia fatto pure qualcosa, ma non ci dobbiamo piangere addosso, adesso ci sarà qualcuno che combatterà la mafia. Senti, ti volevo dire una cosa che mi è capitata di leggere. Dimmi. Che diceva: capitale corrotta, nazione infetta. Sì, Manlio Cancogni nel 55 sul Vecchio Espresso. Questa dal 55 siamo nel 2015. Dici, non è cambiato niente. C'è qualcuno, dico, mo bisogna che faccia sul serio. Mandiamo via gli inamovibili anche. Mandiamo via, cioè, il programma tuo, se dovessi diventare sindaco di Roma, che faresti? Mandiamo via. Cambiare tutto, cambiare, mandare via questi che fanno finta di lavorare. Sì, i fannulloni via dal Campidoglio, i centurioni pure via dal Colosseo. Centurioni via dal Colosseo. Via tutti, via. Tutti, facciamo poi una città seria come Berlino, come Londra, andiamo. Campi Rom pure, mi sembra che no. Vabbè, adesso quelli è un problema annoso, bisogna pure che si integrino e vadino a lavorare, signore. Dovete andare a lavorare, come diceva Panelli nel Conte Tacchia. E come no, me lo ricordo. Lo ricordi, devono andare a lavorare. Io vedo tutta gente che i postifici sono la rovina della nostra città. Cioè i postifici, che dici, ministeri, questa roba qua. Sono dei postifici dove ci sono delle persone che non fanno un bene amato piffero. Beh, e no, questa è la verità. Eh beh sì, ma insomma non c'è dubbio. No, però quindi ha ragione Parenzo, non ce la prendiamo adesso solo col sindaco. Che dici, no? Davide, che dici? No, qui c'ho un problema, perché sono in taxi in questo momento e il mio tassista, che è Rieti 4, ah scusami caro, mi ha detto chiudi il telefono, perché è incazzato, perché dice che io gli ho fatto chiudere la Zanzara, lui ovviamente sono salito in taxi. E dici, mi fai perdere Montesano alla Zanzara? E gli dico, ma che devo fare di quella orario, amico mio? E mai, che cazzo me ne frega? Metti che ti cade la linea come sempre, io mi ascolto Montesano. Però vuole dire una, vuole salutarti e dire una cosa a Montesano. Passami, passa per tassista, passa per tassista. Beh, se mi fermi al semaforo te lo passo, altrimenti no. Perché no, per carità, tutto regolare, tutto regolare. Ciao. Aspetta un attimo, vai, prego. Buonasera maestro. Ciao, ciao, che okay, Rieti cosa? Maestro chi? Maestro, perché io sono un eterno allievo, grazie. No, no, io ti ho preso in macchina. Ciao Cruciani. Ciao, io ti ho preso in macchina tre volte, ho preso il maestro in macchina dalla sua abitazione con la sua splendida moglie, siamo andati a vedere, andava al Teatro dell'Opera, è una bravissima persona, un bravissimo cliente, dico la verità. Grazie. Sì, cioè, bravissimo, perché? Bravissimo perché cliente, che significa che paga, poi lo pagano tutti, bravissimo cliente che non sporca la macchina, che fa? No, no, pure, certo. Io sono un grande frequentatore di taxi, io perché ho rinunciato all'automobile. Io ho degli amici che dicono, lo sai che per arrivare qui da te mezz'ora ho girato per trovare un posto, dico, ma voi potete perdere mezz'ora della vostra vita a cercare un posto, ma prendetevi un taxi, va bene, o senti, prendete i mezzi pubblici, che è bellissimo, io sono 19 qui sotto, arrivo fino alla sala prove laggiù sulla Prenestina, eh? Tassista, come ti chiami? Mi chiamo Carlo. Ciao Carlo, Giuseppe. Senti, mi dici se anche tu sei uno tra quelli che è felice per la dipartita di Marino oppure non te ne frega niente? Devo dire la verità? Tanto chi arriva dopo? È uguale, dici, in cambio a cazzo. Dai, e basta, no, io basta, io non so certo di sinistra, odio Parenzo e tutto quanto. No, odi addirittura, odi, ce l'hai in macchina, adesso che fai? Adesso mi preoccupo, dai. Dopo posso far scendere? No, vabbè, dai, che c'entra? No, poi l'ho già visto altre volte, l'ho sempre salutato quando a spasso col però, bambino. Però dici, non cambia niente, dici, non cambia niente. No, sì, politicamente non, dai, siamo finiti, chi arriva arriva. È ingovernabile, no? Sta città, dai, Roma è ingovernabile, fermo tutto che c'è il traffico, fermo, resta lì, Carlo, Enrico Montesano, David Parenzo nel taxi, a tra poco. Dopo che fai, quando vai a dormire ti sogni traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Su internet, caro Parenzo, c'è una cosa un po' strana. Adesso non so se ci sia il tassista col telefono di Parenzo ancora, Carlo. No, non si sente, fermo. Allora, una cosa molto strana. C'è qualcuno, credo il sito, insomma, il profilo ufficiale Twitter della Zanzara, che mi ha proposto come sindaco di Roma. Ora, devo dire la verità, caro Montesano, a tutto penso tranne di candidarmi a sindaco, anche perché, devo dire la verità, lo farei solo per gettare scompiglio. Ma tanto lo sai, non lo facciamo noi, perché il sindaco di Roma ormai è Renzi. È vero, però dipende se vince la sinistra, perché se vince non so, un altro. Io lo sai che spero, che un gruppo di giovani gagliardi dei 5 Stelle, e tosti, onesti, prendano e vincano queste elezioni, perché dobbiamo finalmente andare alle elezioni. Sei con 5 Stelle? Sei con 5 Stelle? Allora hanno tirato avanti perché ci hanno paura che perdono, ma penso di sì, io penso che il 5 Stelle potrebbe vincere queste elezioni. Certo, c'è Marchini, vediamo che succede. No, per chi fa il tifo? A parte che per te stesso, se ti candidi, ma per chi fa il tifo? Io mi candido, io ho un programma in 10 punti per amministrare bene Roma. Tu lo sai qual è il mio motto? Qual è? Comunque, aiutatemi Petroselli, ecco. E il sindaco, se lo fai veramente, muore di crepa cuore come lui. L'ultimo sindaco di Roma è stato lui. Noi ci abbiamo avuto, dai, ci abbiamo avuto. Però adesso è il momento dei 5 Stelle, secondo te? Dal Marziano, l'ultimo è stato il Marziano, come si dice. Poi io non lo so, spero che ce la facciano. Ho letto dei nomi strani, mi piaceva Battista, certo. Di Battista, tutti dicono che si deve candidare Di Battista. Questi no, Battista è comico. Di Battista. Battista, sì, no, Battista quello che fa il No, la cosa incredibile è un'altra. Tutti quanti dicono che si devono candidare, cioè dicono che con Di Battista a Roma e con Di Maio a Napoli 5 Stelle vincono in carrozza. Loro, siccome sono fissati su questa cosa che il mandato devono rispettare, per carità, va tutto bene. È giusto. Sì, certo. Però rischiano di che cosa? di candidare dei personaggi sconosciuti o comunque meno conosciuti di questi qua. E poi comunque sono in gamba, perché sì, però in gamba, tutti i sondaggi fatto una grande lotta al comune. Però ecco, vedrete, tutti i sondaggi dicono che cosa? Dicono che un candidato meno conosciuto sia di Battista che di Maio a Napoli prenderebbe. Però io ho letto Santoro sarebbe un boomerang, un autogol. Ah, dici, sarebbe una follia, dici Santoro. Ho letto da qualche parte, non so in quale giornale. Io ho letto pure io della possibilità di Santoro. Ma Davide c'è? O sarà andato? Ecco. No, certo che ci sono, solo che abbiamo spento un attimo perché il tassista voleva ascoltare la radio, capito? Che era ma non ci arrivi mai. Mi ha preso il telefono, scusi, gli ho detto tolga perché altrimenti si risente la radio dentro, no? Questo mi, certo, ha preso il telefono, sì, lo ha chiuso, sì, e ha messo la radio. Sono stato praticamente rapito da questo straordinario tassista che peraltro in questi secondi di blackout ho scoperto, che posso dirlo dottore, è passato dall'estrema sinistra all'estrema destra. Ma che vuol dire? Che vuol dire dall'estrema sinistra? Vabbè, te lo passo così, io dico, però tenga le mani sul volante, amico mio, altrimenti. Qual è la storia, Carlo? È stupendo che si sta a fare Parenzo, eh? Qual è la? Beh, stupendo, meraviglioso. Un viaggio col tassista che lo odia, ha detto che io odio Parenzo, ha detto. Butta giù dal tassista. Mo butta giù dal tassista. Sì. Non ho capito, sì, Carlo. Carlo, lo fare volentieri. Ah, lo butteresti volentieri, capito? Lo butterei volentieri dal tassista. Ma tu hai detto, sei passato dall'estrema sinistra all'estrema destra, che vuol dire? Che eri simpatizzante dell'estrema sinistra? Quando eri ragazzino, se non sei, quando sei giovane, se non sei ista, non c'è cuore. Invece adesso? Adesso se sei ista non c'hai cervello. Ah, se sei a sinistra. È bella questa, ammazza, vedi come lo so. Ma perché anche Montesano, è un po' passato dalla sinistra, non dico alla destra, no, perché non è, però ha avuto un innamoramento anche per il centrodestra. È stato anche consigliere comunale, è stato pure in al Parlamento europeo, ha rinunciato al vitalizio. Ma io guarda, ho visto delle cose che se te racconto ti fai delle risate pazzesche al comune di Roma, insomma. Io mi ricordo che una volta, adesso non so se è sindaco a Fiumicino, che Montino è uno dei capi. Incredibile, Montino mi disse, io devo fare una cosa, non riesco a trovare tre pale, hai capito, Rico? Perché quello che andrà la chiave del magazzino non si trova, insomma. A posto ti dico, mandate a casa gli inamovibili, perché va bene, i politici, sì, bene o male, poi pagano, hai visto, vabbè, Marino anche 20.000 euro ha dato, e però vanno via. Gli altri invece restano. Ragazzi, devo dare la pubblicità. Enrico, non era il sindaco virtuale, quell'altro era il picchiatore. Abbiamo provato tutti, vogliamo provare un giovane, una mappata dei giovani onesti. Anche tu sei con i 5 Stelle. A presto, ciao Enrico, d'abbraccio. Ciao, a presto, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Cruciani, buona giornata, ti voglio bene. La Zanzara. Parenzo, mi è venuta l'illuminazione. Parenzo? Sì. Mi è venuta l'illuminazione, fermo. Devo pagare il tassista. Si potrebbe fare, paga, quant'è? Fallo pagare di più, Carlo, passami un attimo Carlo. Adesso quelli che mi hanno invitato alla presentazione del film Pecore in Erba. Ma chi se ne fotte della presentazione del film? Mi devono pagare il taxi però. Ma figurati, mamma mia, che taccagno che sei. Ma no, taccagno. Paga il taxi. Non mi pagano, giustamente. Carlo, perché? Fallo pagare di più, com'è? Marche, com'è il taxi, Marche? Eccomi col... Allora, fermo, Parenzo. Facciamo tutto in diretta, guarda, tutto in diretta, il pagamento del taxi, ti passo a Nicole. No, non voglio parlare con Nicole, voglio parlare con Carlo. Ciao a tutti da Nicole. Ciao Nicole, sì, sempre ebrei, tutti ebrei. Sempre ebrei. Passami Carlo un attimo, Aspetta che ti chiamo Carlo un attimo. Tieni Carlo, ti devo salutare, Cruciani ancora. Salve Giuseppe. Ciao Carlo, com'è il taxi tuo? Rieti 14. Rieti 14, hai fatto pagare 5 euro di più a Parenzo, mi raccomando. No, non facciamo queste cose noi. Ma come no? Ma una sorta di punizione ci deve essere. Cari tassisti, un appello a tutti i tassisti di Roma: quando sale Parenzo sul taxi, mettetegli una sovrattassa a Parenzo di 5 euro. Una sovrattassa di 5 euro. Ciao Carlo. Ciao bello, ciao, bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao. David? Sì, dimmi caro. Allora, mi è venuta una magnifica idea. Per risollevare... Sei uno stronzo. No, per risollevare... Sì, a parte quello, la sovrattassa Parenzo a tutti i tassisti, la 5 euro. Me l'hanno detto. Quando sale sul taxi, tassa Parenzo di 5 euro. Però la cosa fondamentale è questa. Mi è venuta una splendida idea. Si potrebbe fare la lista Cruciani a Roma. Beh, è una cosa meravigliosa. Ma guarda che sei scemo, scemotto, te l'ho detto dall'inizio della trasmissione. No, no, io voglio fare la lista Cruciani a Roma. Io voglio fare l'assessore al nulla. No, tu non sei assessore un cazzo. No, no, no, no, no, non no, mi dai neanche un assessorato. Ma no, ma non c'è nessun assessorato, perché io voglio continuare a condurre. E c'è il trucco, perché le leggi italiane ti proibiscono, se ti candidi a sindaco, di condurre, di condurre. No, ma io voglio fare l'assessore. No, ma io per un mese prima delle elezioni non potrei condurre, perché io ho già degli appalti che ho disegnato. No, ma lascia perdere, una cosa seria. È una cosa seria, una cosa seria. No, ma è serissima. Rieti 14, siccome vogliamo fare la lista alle elezioni, tutta la vita. Rieti 14 ci sono al traffico. No, ma raga, non esageriamo. Vanno fatte le cose serie. Io voglio fare in 5-6 punti un programma normale, un programma altro che Marchini, eccetera. Un programma normale per Roma. Che sta succedendo lì? Che succede? Hai fatto lo sconto anche. Che succede? Ma tutta una roba dei sordi, guarda. C'è qualcuno che ha un euro qui? Ma guarda che pulciano che sei. Guarda quanti soldi c'è in tasca questo. La lista Cruciani a Roma, io non posso candidarmi, se no non dovrei condurre. Una battaglia pazzesca facciamo, in 5-6 punti, 5-6 punti per governare Roma. Mi viene questa tentazione, mi viene questa tentazione. Chissà che non grattiamo qualche voto a qualcuno, eh. Pochi, ma magari li grattiamo a qualcuno. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. When I was young. Allora, Andrea D'Arieti, vai. Ciao, oh, amagici. Dai, dimmi, dimmi. Ciao, ciao. Senti, io avevo chiamato per Marino. Sì. Però tanta la situazione a Roma non la cambia nessuno, Crucià. In che senso? Senti. Io so quello che va a prostitutere una volta a settimana. Ti ricordi? Ti avevo chiamato un po' di giorni fa. Ma io che ne so, non è che mi posso ricordare che tu vai a prostitutere una volta a settimana. Niente, ti ho chiamato perché mi è capitata una cosa che devo dire a quei due. Dimmi, dimmi. Soprattutto dimmi. A te, Crucià. Dimmi. E vabbè, senti, allora sono stato sulla testa di casa e ho trovato spesso, sì. Perché di solito ci stanno sempre belle fighe. Sì, ma vabbè, una casa che vuol dire in queste, una di queste case? Una casa d'appuntamento. Una casa, ma che esistono le case di appuntamenti clandestine? Certo, certo. Che io ma dove, a Roma? Sì, a Roma, questa qua a Roma. Allora? E allora, senti, io vado davanti, arrivo davanti alla porta, sì. E mi apre una bella mora, che sì. Mi dice che è venezuelana. Sì. Vabbè. Entro, questa qua comincia a spogliarsi, si tira giù il reggiseno, sì. C'ha due belle sinne cruciate che... Vabbè, dai. E vabbè, poi si gira di schiena. Sì, vabbè. Vabbè, non è che adesso mi vuoi raccontare cose nel dettaglio, il rapporto sessuale che hai avuto con questa, certo, qua, no? Aspetta, ma no, certo. Penso, no, fammi finire. Magari non ci interessa il rapporto sessuale che hai avuto con la venezuelana. No, alla fine ti interessa, dai, fammi finire un attimo, un minuto. E praticamente, vabbè, c'è un perizoma nero di pizzo, sì. E poi c'è un culo che vabbè, te lo dica a fare, questo è inutile sottolineare. Però aspetta, perché poi si gira. E Crucia, guarda, te lo giuro sui figli mia. Sì, vabbè, c'aveva un pacco postale da fa invidia, guarda, mi faceva invidia pure a me. Era un trans. Allora a quel punto lo sai che ho fatto? Che hai fatto? Gli ho detto, mi sono sbagliato. E mi giro e me ne vado. Allora? E me ne so na. Allora mi sento che questa qua mi pigliava in braccio e mi dice, fermo, aspetta un attimo. Sì. E che fa questa? Mi tira giù i calzoni, sì. E cruciato, giuro. No, vabbè, stiamo calmi, sesso. No, aspetta, sto calmo. Allora? Mi comincia a fare un sesso orale, sì. Che io te giuro, non l'ho mai provato in vita mia. Guarda, molti dicono questo, io non ho mai provato questa roba qui perché non sono mai andato con un trans in vita mia. Ho avuto qualche tentazione, qualche recente tentazione l'ho avuta. Però no, devo, dir- vero, però aspetta, devo dirti la verità, devo dirti aspetta, la verità. Aspetta. Non ho superato il Rubicone. Il problema fondamentale è questo: è che molti mi dicono, e tu mi confermi questa cosa, sempre che questo racconto sia vero, Sì, te lo giuro. Questo va bene, allora ci credo. E tu, molti mi dicono che effettivamente c'è una bravura, ma lì è l'esperienza, però, soprattutto da parte di quei trans che fanno la prostituzione. Sicuramente sanno come lavorare, sanno come. Che ti dico? Vabbè, è un lavoro anche quello. Parenzo, tu che dici di questo racconto? Ma guarda, io voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce in cazzo. Guarda, questo è vero. Nel merito, questo radioascoltatore ha ragione sulla vicenda trans. So, so poco, non ho mai avuto pratica. Mi sembra una straordinaria testimonianza di vita in grande stile pasoliniano, certo. Quindi va bene. Io ho chiamato perché o la raccontavo a voi o la raccontavo al bar. No, ma è al giusto bar non questa. Non è giusto che tu abbia superato questo muro della riservatezza e di fronte ai tuoi figli che ti ascoltano è giusto che tu abbia fatto questo racconto. Ma non ascolta nessuno perché noi a casa la radio non ce l'abbiamo, pare. Vedrai che Crucia, prima che finisca la trasmissione. E praticamente, siccome mi stava a mannare su un altro mondo, sì. E gli ho detto, oh, aspetta, fermate un attimo, se no mi fa cascare per terra. Cioè, mi stava a sucare pure il midollo. E vabbè, quello è normale. Allora si è fermata. Sono professionisti detto, quelli, eh. Gli ho detto, aspetta che mi sdraio sul letto, perché sennò mi faceva cascare per terra. Vabbè, mi sono messo sul letto, ha continuato e dopo un po' mi ha detto, che fai, me lo metti dietro? Gli ho detto, oh, ci pensa proprio, spompina. È finita così, non c'è avuto il coraggio. Non hai avuto il coraggio. Davide, aspetta, senti la sentenza parenziana, aspetta. Scusi, ascoltatore, volevo solo chiederle questo. Lei è consapevole di aver chiamato la Radio 24, quella della Confindustria, vero? Sì, ma io so 5 anni che vi sento tutte le sere. No, ma volevo sapere se aveva la consapevolezza del media che ha chiamato, cioè non è YouPorn Radio. Ho capito, ma io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. No, ho chiamato la Zanzara, questo è chiaro, questo è molto chiaro. Volevo sapere anche se aveva la consapevolezza. Anche perché no, aspetta, sono 3 giorni che vi sto chiamando, non ce l'ho fatta mai. Ma no, veramente 3 giorni non è possibile, perché non siamo stati in onda né sabato né domenica, dunque non è possibile. Vabbè, ci ho provato mercoledì, giovedì e venerdì, Crucia, per farci questo grande racconto pasoliniano di vita reale. Bene. Ma sì, perché io non c'ero mai stato quei transe, Crucia. In questo caso sei stato quasi... Mi è capitato poco tempo fa, ma lo sai perché non ci sono stato mai quei transe? Perché? Perché io sono stato sempre innamorato di quel mondo, no? Perché come dici tu, le voci girano e quindi... Però non hai mai avuto il coraggio perché no, non vuoi rimanere sotto botta, non vuoi rimanere sotto botta. Crucia, non è una questione di coraggio. E cosa? È una questione che quando io, siccome ti avevo detto l'altra volta che... le vado a vedere su internet, sì. Le so con le ricerco su internet, sì. Che quando accendi internet, sì. Accendi il computer, è praticamente prima ti scappano giù tutte le fighe e poi alla fine trovi i trans. E vabbè, allora? Siccome a me mi piace troppo la figa, anche se ho l'idea di andare con trans, però mi ferma la figa. Vabbè. Perché sa prima, capito, Crucia? Vabbè, Andrea, ciao amico mio, ciao. È inutile sottolineare, caro Parenzo, che il punto primo del programma della lista Cruciani o lista Zanzara ancora da decidere tutto questo, però è quasi una certezza. Adesso devo capire come funzionano le cose quando le procedure saranno avviate, eccetera, eccetera. Sì. Alle comunali di Roma, forse anche alle comunali di Milano in abbinata, sarà la legalizzazione della prostituzione, cioè dire quartieri a luci rosse istituzionalizzati anche contro la legge, cioè il sindaco o la lista Cruciani o la lista Zanzara che partecipa alle elezioni propone al primo punto la creazione di quartieri lucidosi e controllo ferreo della salute delle prostitute, dei libretti sanitari, dichiarazione dei redditi e quant'altro. Allora, Rosario da Napoli, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Due domande veloci. Perché lei ce l'ha così tanto con la Chiesa? Perché esalta sempre quello che non va nella Chiesa, come per esempio un prete che inneggia alla pedofilia e non all'omosessualità? E non esalta Non ho capito, chi è che cos'è che ho fatto? No, voglio dire, lei a volte, sì. Soprattutto nell'ultimo periodo, per esempio, addirittura la settimana scorsa, se non ricordo male, con Toscani in linea, aveva detto distruggiamo le religioni. Perché assolutamente, essere... ne sono convinto che la religione sia la causa di grandi mali del mondo. Ma ci mancherebbe altro, lei è libero di pensare a una cosa del genere, ma almeno nella stessa misura in cui io sono libero di credere in Dio. e quindi se la sua... Infatti mica la voglio ammazzare, io mica ti voglio ammazzare, mica ti voglio sopprimere. No, però non vedo per quale motivo non bisogna anche esaltare quello che di buono c'è, per esempio, in un'istituzione come la Chiesa, un prete che va in missione, un prete che ospita a casa sua sette profughi siriani. Perché non diciamo anche questo, oltre a dire... è vero o no? Ma quello lo sappiamo che la Chiesa fa tante cose, che vuol dire? Cioè io parlo dell'istituzione Vaticano, mica dei preti, mica dei preti missionari. Parlo del Vaticano, del potere, di quelli che vogliono imporci un sindaco di Roma, di quelli che sputtanano i sindaci. Parlo dell'ipocrisia, quando invece abbiamo scoperto che anche tra i preti carmelitani, hai sentito che succede a Roma tra i preti carmelitani che hanno rapporti sessuali a Villa Borghese? La Chiesa è fatta da uomini, ci saranno poliziotti che spacciano cocaina, ci saranno poliziotti che vanno, ma mica combattiamo con la polizia. Scusi, la Chiesa è fatta da uomini, è questo che dobbiamo capire. Questo lo sappiamo, quindi, ma l'istituzione Vaticano, vabbè, ma il discorso sarebbe lungo, dai, ho capito Rosario, ma io infatti mica lo condanno. Ha ragione, sarebbe come dire l'istituzione della Guardia di Finanza, come c'è uno che commette un reato, allora bisogna abolire la Guardia di Finanza. Vabbè, follia, Ettore da Milano, ho capito Rosario, ho capito, Ettore Milano. Cruciani, senti, dimmi. Sono un tassista. Sì, dimmi. E volevo parlare con Parenzo. Sì, eccolo qui. A parte che se il telefono è caduto come al solito perché è un coglione. Ecco, ma a parte allora, adesso lo recuperiamo, così gliene dici due, dai. Cruciani, ti spiego. Dimmi. Allora, mi hanno rotto il vetro del taxi tre volte per portarmi via la moneta che avevo nel bicchierino. Sì. Sempre di domenica, sotto casa mia alla una del pomeriggio. Sì. No? E mi hanno fatto dei danni dalla Madonna. Non ho più potuto lavorare per sei giorni nelle tre volte che mi hanno rotto il vetro. Io se prendo quello lì chi? Se riesco a prendere, ti giuro che lo lascio per terra e le sparo. No, perché non c'ho la pistola? Ma io quello ammazzerei e le tirerei fuori il cuore. Dio la parezzo. Ma chi quello? Ma quello che ti ha rotto il vetro tre volte per rubare? Sì, mi ha rubato tre volte il bicchierino con la moneta, una volta c'era dentro 20 euro, una volta 18, una volta 25. Ma cosa mi deve dire a me? Non ho capito, cos'è che mi deve dire? No, siccome che tu difendi i ladri, difendi qui, eccolo, difendi qua. Là. Eccolo qua il furbo, eccolo quello che ha capito sono tutto il volo. Parenzo, tu non capisci un caio, ti ho anche portato sul taxi. Tu difendi i delinquenti, difendi quella gente lì. Non ho mai difeso un delinquente, ma perché devi dire stupidaggine? Vabbè, che cosa faresti tu a questo tizio se lo becchi? Se lo becchi mentre gli sta spaccando il vetro, che fai, Ettore? Lo lascio per terra. Se come? Ci riesco, lo lascio per terra. Ma io lo capisco questo tassista che è stressato dal fatto che per tre volte gli hanno rotto la macchina per rubare i pochi euro che magari che aveva dentro quel bicchiere. Io? Perché tu? Tu difendi i ladri, difendi i delinquenti. Ma quali ladri? Non ho mai difeso un ladro in vita mia, ma di che sta parlando? Ma è pazzo! No! Ma guarda che io ti ascolto tutte le sere! Dai questa impressione, evidentemente, no? Va bene, Cristina da Roma, vai, Cristina! Dai questa impressione! Dimmi! Pronto? Vai, Cristina, dimmi! Buonasera! Vai! Io volevo intervenire sul discorso che c'era prima con Salvini, il gioielliere di Ercolano, che ha sparato con i due gioiellieri. Sì. Io sono una persona che 20 giorni fa ha subito un furto in gioielleria. Sì. Mi hanno portato via tutto, non è rimasto un grammo d'oro. A ora di pranzo. Ma c'eri tu dentro? No, meno male non c'ero io. Anche se tante volte io rientro a ora di pranzo. Ma tu sei armata, Cristina? No, io non sono armata, non sono mai stata per le armi. E chi era dentro? Armi. Chi era dentro? Aveva le armi oppure no? Pistole? Sembra di no. No, sembra di no, lo saprai, no? Incappucciati. No, ma non loro, i proprietari, voi, chi c'era? Tuo marito, tuo figlio, chi c'era? No, era chiuso il negozio, a ora di pranzo. Ah, era chiuso, era chiuso. Hanno fatto un furto a ora di pranzo. Ma cosa ci vuoi dire allora? Perché ci hai chiamato? Io ho chiamato che se io, per esempio, adesso beccavo quei ladri dentro alla mia gioielleria, io gli sparavo. Perché a me mi hanno messo in mutande adesso. Mm. Io adesso chi vado a chiedere i soldi per ricominciare? Come faccio a ricominciare? Allora, la straordinaria tutto? Testimonianza di Cristina, rapinata in una gioielleria, gli hanno svuotato tutto, dice: se io avessi di fronte quei ladri, sparerei a questi ladri. Io direi di risentirla domani, prendiamo il numero, mi raccomando, qui alla Zanzara, storia di rapinatori, di rapine, di Roma, di sindaci, di buche e quant'altro. Parenzo in taxi è già arrivato, ci sentiamo domani 18:30, lista Cruciani, lista Zanzara per il comune di Roma e il comune di Milano, grande idea. Ma io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.